Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Adesso stiamo per incontrare Ivo. Eccolo qui, lo scopritore dell'acqua miracolosa. Buongiorno Ivo, aspetti. Buongiorno. Che arriva a salutarlo. Buongiorno. Ci racconti come ha scoperto l'acqua miracolosa? Allora, io vorrei precisare prima di tutto che io sono una persona che balle non ne racconto. Qui i miracoli sono 3200. Le malattie che la scienza non guarisce sono circa 120 le malattie. Bene. Posso assicurare che da questo momento vi sto raccontando cosa può fare l'acqua. Quest'acqua può guarire chiunque al mondo, l'acqua si moltiplica. E vorrei, l'acqua non è la mia, l'acqua è di tutti, l'acqua è del mondo. Questo posto sta chiedendo che tutti gli ammalati guariscano, i tumori, i soporosi, cistite, ulcere, ma di tante malattie. Quante malattie riesce a guarire questa? Ma le malattie che la scienza non guarisce sono 120, però anche le altre. Questo signore avrebbe pieno diritto di vendere la sua acqua miracolosa in farmacia e farla pagare anche 15-20 euro a boccetta. Si tratta dell'acqua miracolosa di Garlasco e il signore è Ivo Pignatti, l'intervista di Cinzia Rovera. Ivo Pignatti vende l'acqua, vende, non la vende, ma propaga e impugna le virtù miracolose dell'acqua di Garlasco. L'acqua di Garlasco, direte, è una truffa, ma che c'entra poi l'acqua a guarire? Per quale principio guarisce l'acqua? Beh, nella medicina, cosiddetta medicina, nei trattamenti omeopatici c'è acqua fresca, acqua pura, acqua e zucchero. Questo è scientificamente provato, non c'è altro che acqua, non esiste assolutamente nemmeno traccia di una molecola di un principio attivo. Questa è la scienza, potete crederci o non crederci. Perché dico questo? Dico questo perché c'è ormai una credenza diffusa e sto seguendo in questi giorni il dibattito nei social dopo l'episodio terrificante del bambino marchigiano morto perché un medico gli curava l'otite con l'acqua e zucchero praticamente, cioè con una cura omeopatica. Adesso improvvisamente ci si è resi conto che esistono in Italia 5 milioni di amanti delle cure alternative, soprattutto sono donne, giovani donne, che sono convinte che la medicina in realtà presenti così tanti alti rischi, e indubbiamente presenta ogni medicina una controindicazione, che conviene affidarsi alle cure alternative. Libertà di farlo. Come si è liberi di prendere e bere l'acqua di Garlasco, come si è liberi, perché non esiste una legge che lo vieti assolutamente, di comprare quelle madonnine di plastica fosforescenti con l'acqua di Lourdes. Ne aveva una mia zia sul comodino, di notte si accendeva, mi faceva tanta impressione, la bevevo, mi sembrava di stare meglio. Beh, si possono vendere tranquillamente, ma non ci può essere scritto sopra: questa è una medicina, non può essere venduta da un banco del farmacista come alternativa a una medicina. Troppe volte mi è capitato di andare in farmacia con persone che parlano di alcuni sintomi, dicono: beh, prenda questa medicina, ma c'è l'alternativa omeopatica, c'è un farmaco omeopatico, e si comincia a prendere i farmaci omeopatici. I prodotti omeopatici non dovrebbero essere chiamati farmaci. Perché? Perché se vogliamo credere nella scienza, nella fisica, nella chimica, nell'omeopatia non c'è nulla. Detto questo, stanno venendo, avete sentito nel giornale radio di un istante fa, delle circostanze accessorie che rendono abbastanza circoscritto e particolare il caso marchigiano. Il l'omeopata che ha curato il piccolo Francesco Bonifazi, bambino che è morto per otite, si chiama Massimiliano Mecozzi. Ora è indagato per omicidio colposo, ma stanno emergendo, almeno dalle prime indiscrezioni, le agenzie che stiamo leggendo noi stessi, dei fatti che danno un alone ancora più legato alla superstizione, ancora più legato alla credenza. Aveva fondato un'associazione, Camelot, come la fortezza del Re Artù, in cui c'erano re e regine, che aderiva al Roveto Ardente, che era un'altra setta, in questa casa abitava lui. Aveva comunque un'idea che ci fosse qualcosa che assolutamente non ha nulla a che fare con la scienza, a che fare con la fantasy, a che fare con la lecita possibilità di credere che esistano gli dèi, che esistano i cavalieri da tavola rotonda, quello che uno crede. Grazie a Dio siamo un paese libero, in cui ha libertà di pensiero e di immaginazione quanto vuole. Ma tutto questo non può tradursi in realtà, secondo me, e poi vediamo se gli ascoltatori mi potranno, avranno argomenti per contraddirmi, in una parallela industria farmaceutica che fa delle parallele medicine, che sono pseudomedicine, perché medicine non sono, è medico ciò che la scienza dice che comunque ha un principio attivo che comunque cura una patologia. Quello che non l'ha è come l'acqua di Lourdes, come l'acqua di Garlasco, come probabilmente il Santo Graal dei cavalieri da tavola rotonda a cui apparteneva il medico che ha prescritto infatti acqua fresca per curare l'otite a un bambino che è morto. 800240024, nel pieno rispetto alla libertà individuale, non sarebbe il caso che si facesse una legge per cui sul flaconcino, con quel nome latino misterioso di un trattamento omeopatico, ci sta scritto non cura una mazza, non è una medicina, prendetelo se volete, se vi fa bene siamo contenti per voi, ma non è una medicina. 800240024, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Io ho chiesto alla Madonna una cosa: come fa l'acqua che è pura, perché l'ho fatta analizzare l'acqua pura, a far morire i virus? E la Madonna mi ha risposto in sogno verso il mattino, dopo 40 anni mi ha dato la risposta. Sono 40 anni che quest'acqua è in giro per il mondo. La Madonna mi ha detto: la tua acqua purifica il sangue in modo tale che i virus muoiano di fame. Prima cosa che mi ha detto. Poi mi ha spiegato che una volta si mangiava male, ma si mangiava meglio, in quanto non c'erano i conservanti. I conservanti conservano anche le scorie che noi perdiamo ogni notte. Sono 5 milioni di cellule che muoiono ogni notte. Queste cellule noi dobbiamo smaltirle. Ora, una volta si smaltivano, ma ora con i conservanti non. Il gallo canta, sembra quasi suggellare le parole di saggezza dello scopritore dell'acqua minerosa di Garlasco, a cui la Madonna ha spiegato che quell'acqua lì guarisce, e ha spiegato che ci sono i conservanti nei cibi e via dicendo. Ma non nulla in contrario, mi fa sorridere, ma questo signore la regala l'acqua di Garlasco e qualcuno vuole andarsela a bere, ma buon per lui, gli farà bene. Nessuno mi ha arrestato, ho visto il listino prezzi delle medicine che fanno a Lourdes, c'è anche il detergente intimo di Lourdes che probabilmente cura i batteri ma allo stesso tempo ridona la castità alle persone che lo usano, non so bene, oppure allontana le tentazioni, ma mi sta bene, sono felice che ci siano persone che ancora hanno modo di avere una visione così ampia e così poco condizionata dell'esistenza. Ma io sto leggendo le notizie che mi vengono comunque riguardo il medico che avrebbe somministrato il trattamento omeopatico e quindi causato praticamente la morte di un bambino, che basta dargli un antibiotico. Parla di questa famosa setta del roveto ardente, che si riunivano per leggere la Bibbia e guarivano le persone con l'imposizione delle mani. È chiaro che è una visione abbastanza distorta e atipica anche rispetto all'omeopatia. Immagino che oggi tutti i medici, lecitamente medici omeopati, diranno: ma noi non siamo quello era la setta, il roveto ardente, i cavalieri, la tavola rotonda, il rattù. Sì, ma sta di fatto che l'omeopatia comunque non è medicina. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io per iniziare questo dibattito chiamo un filosofo della scienza. Stefano Morigi lo conoscete, spesso nostro ospite, insieme a Marco Dallari, il suo ultimo libro, Educare alla bellezza e verità, Erickson Edizioni. Allora Stefano Morigi, dal punto di vista proprio di un filosofo della scienza, quindi dal punto di vista dell'evidenza scientifica, non puoi parlare da medico ma parli proprio da filosofo della scienza, in questo momento come giudichi un paese evoluto, un'umanità evoluta, umanità che comunque ha degli strumenti per giudicare, strumenti di lettura oggettiva dei fenomeni, che paragoni l'acqua fresca, che può essere lecito che uno venda acqua fresca, non c'è nessun problema, basta ci scrive sopra acqua miracolosa e uno la può vendere. L'equipare è un farmaco. Io oggi vado in farmacia, dico voglio una medicina omeopatica, mi danno una cosa dicendo che medicina non è. Sai, tu dici effettivamente abbiamo sempre di più per gli strumenti per informarci, ma questo non significa che sia così diffuso l'atteggiamento critico, analitico e consapevole per usare quegli strumenti. Punto primo, l'attendibilità scientifica di una disciplina, l'omeopatia in questo caso, o di una presunta terapia, non si misura col numero dei seguaci o dei credenti che ha, posto che ognuno è libero di credere in ciò che vuole, non è il numero dei credenti. Scusa, no, perché mi ha dato un sms, nessuno vende l'acqua di Lourdes, scusate, ma quelle statue fosforescenti con la Madonna e l'acqua dentro, non credo che le regalino, le troviamo nei negozi, vengono vendute, ma non è che c'è scritto è medicina, se hai fede quella può essere qualcosa che è corroborante la tua fede, io non ci trovo niente di strano, pieno rispetto di questa cosa, preferisco la Madonnina fosforescente di Lourdes alla cosiddetta medicina omeopatica, dal mio punto di vista, non so. Esatto, nel senso che tu stai ribadendo che ognuno è libero di credere, certo, ciò che vuole, ma tra un tot numero di credenti, anche purtroppo numerosi, e la pretesa attendibilità di una terapia o di una disciplina, ci passa il mare. Questa è una cosa che non dobbiamo, su cui non si può discutere. Aggiungo, più nello specifico, si sente dire io ho usato una terapia omeopatica e ne ho avuti dei benefici, no? È un po' la difesa che tutti portano, anche in rete ho letto delle cose atroci in questa direzione. Benissimo. Un'altra cosa che dovrebbe essere chiaro in quell'educazione scientifica che al nostro paese manca clamorosamente e drammaticamente, è che la percezione soggettiva, sottolineo soggettiva, di un presunto beneficio portato da una qualche presunta terapia non ha nulla a che vedere con i controlli scientifici circa l'eventuale beneficio che una terapia porta. Ricorderai, ne abbiamo più volte parlato da te nella tua trasmissione, delle mamme che avevano voluto sciaguratamente sperimentare l'intruglio di Stamina, che dicevano ma dopo che mio figlio è stato somministrato l'intruglio di Stamina muove meglio il braccino. E questa per loro era un'evidenza, ma era un'evidenza soggettiva che non aveva nulla a che vedere con un'analisi e un tentativo di comprensione secondo i protocolli scientifici circa l'eventuale beneficio o danno, come si è poi rivelato, che quell'intruglio avrebbe potuto provocare. Sono quindi due cose completamente distinte. Sei d'accordo che sarebbe una circostanza che non lede nessuna libertà individuale, ma dà un senso di giusto orientamento rispetto all'ignoranza generale? Di scrivere sulle boccette omeopatiche non è una medicina grande, come sui pacchetti delle sigarette ci sono i morti, i cadaveri putrefatti per dire fa male alla salute, senza immagini truci, è semplicemente grande, però scritto non è una medicina, non cura niente, poi ognuno faccia quello che vuole. Francamente come dicevi tu, trovo perfino eccessivo le immagini truculente che ci sono sui pacchetti di sigarette, però segnalare che quello è un prodotto che crea danni alla salute, così come l'omeopatia è un prodotto che non fa nulla, non aiuta in nessun senso, dovrebbe essere una cosa segnalata, perché se lo è fatto ufficialmente, cioè da un'istituzione, dopodiché ognuno si può e si deve prendere le sue responsabilità circa le scelte che fa su se stesso, sui propri figli. Sentiamo Federica. Federica, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. No, non sono Federica, sono Pierrica. Ah, Pierrica, ho letto male, io c'ho ragione, Pierrica. Va bene, è lo stesso. Io senta, sono stata dall'otorino, sono stata curata per l'esofagite da reflusso col peptazol 20, però sono stata poi dall'omeopata, mi ha dato delle medicine e io ho risolto il problema dell'esofagite. Sono contento, mi fa piacere con questo. Tutto qui. Lei sta bene. Guardi, una volta io avevo un mal di schiena fortissimo, colpo della strega, mandato le pilloline omeopatiche, ma parecchi anni fa. Ho sentito un benefico calore, stavo meglio. Con questo? Cosa dire? È una medicina? No, io volevo dire che ho sostituito una medicina piuttosto pesante che inibisce la pompa protonica con delle medicine leggere. L'inibitore di pompa mi fa solo paura la parola, ma ogni tanto lo prendo anche io, e infatti è una vita molto triste. Ma a parte questo, cosa c'entra questo? Signora, lei ha tolto una medicina che ha un effetto accertato, certificato, scientificamente certificato, e prende acqua e zucchero. Sta meglio, sono contento per lei, ma questo non significa che sull'acqua e zucchero bisogna scriverci medicina, da prendere al posto del Panctor o non so di quale altro inibitore di pompa, che oggi ne girano tanti, ho detto un nome come un altro. Carlo, buongiorno. Buongiorno, vorrei proporre un contraddittorio rispetto all'impostazione, sì, che ha dato all'argomento. Allora, Per quanto mi riguarda, non si tratta semplicemente di dividere tra chi crede negli dèi e chi crede nella scienza, perché intanto anche la scienza evidentemente non è una questione di fede, no? Altrimenti no, non è non è questione di fede la scienza. La scienza è, certo, per questo certo. È diversa la fede. La fede è rispettata, per questo è diversa la fede. La scienza è un metodo che dà delle evidenze che sono continuamente certo. rimesse in discussione, ma c'è una comunità che certifica e dà prova ogni volta di quello che uno propone, uno dimostra o uno scrive, capito? Non è che la scienza, uno scrive è la scienza sono tante persone. Certo, ma infatti rispetto alle evidenze di cui lei parla, mi aiuterà il suo ospite, no? Che se non ho capito male si tratta argomenti che hanno a che fare con la filosofia della scienza, no? E mi coadiuverà ricordando uno dei più grandi epistemologi, Popper, che parlava proprio del fatto della necessità che una scienza, perché sia tale, sia falsificabile. Quindi il fatto che magari noi oggi non abbiamo gli strumenti per comprendere appieno le motivazioni che determinano anche alcuni risultati, che magari queste evidenze sono qualche volta semplicemente statistiche, no? Però ciò non significa che quella non sia scienza, che quella la dobbiamo calderone delle credenze metafisiche. Se ne faccia una ragione, è così, esattamente così. Se ne faccia una ragione. Stefano Murigi vuole rispondere sulla citazione di Popper, ma velocemente. No, no, ma il signore fa bene a tirar fuori Popper, che dice che una, più esattamente, una teoria scientifica è tale se è falsificabile, cioè se mostra le condizioni in cui, verificandosi dei dati, quella teoria deve essere buttata via o corretta. Il problema è che se noi proviamo a rendere falsificabile, come è stato fatto, l'omeopatia, si è dimostrato in tutti i modi che non è una scienza medica, non è equiparabile a un farmaco medico. Punto. L'esercizio popperiano è già stato fatto, prendiamone atto, è falsificata, è stata resa falsificabile, ma è anche stata falsificata. Punto. Fermo lì Stefano, 800240024, naturalmente mi stanno scrivendo, quelli che mi dicono sono il solito schiavo delle lobby farmaceutiche che finanzia Confindustria. Benissimo, detto questo, salvo di grazia, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Ecco, pronto. Allora, sì, io sono il solito schiavo delle lobby farmaceutiche, salvo di grazia, non lo so cos'è. È il capo delle lobby farmaceutiche. È un medico chirurgo, è specializzato in ostetricia, ginecologia, ma da anni è la punta più avanzata del richiamare all'ordine sulle evidenze scientifiche. Cura un blog con rigore scientifico, Med Bunker, che quello che chi cerca aiuto deve sapere, che analizza tutti i dati rispetto a queste vicende. Ecco, rispetto all'omeopatia, se ne parla soltanto perché c'è stato un bambino morto, se no ancora tranquillamente tutti potevano continuare a pensare che esistessero le medicine della scienza ufficiale e le medicine della scienza alternativa. Vogliamo fare un chiarimento su questo punto di vista? Ma è chiaro che l'omeopatia, come è stato già detto, non è medicina, nel senso che non ha nulla di scientifico, non ha efficacia provata, e io cerco di spiegarlo anche in maniera elementare spiegando che nel granulo omeopatico c'è solo zucchero. Nonostante questo la gente alla fine guarda quasi con un occhio di diffidenza che lo spiega, perché dice non è possibile che si venda solo zucchero. Io credo che in questo senso ci siano delle responsabilità. Anche ieri o l'altro ieri sentivo il ministro della salute che parlava di omeopatia come medicina complementare che non serve sempre, dando un po' un credito a questo tipo di disciplina, è cosa che non è. C'è responsabilità anche da parte degli ordini dei medici. Non è una medicina, se si dice medicina complementare, tutti pensano che per il raffreddore, il mal di testa, così funziona. Ma funziona perché è un placebo, come le mie pilloline che mi facevano passare il mal di schiena. Io lo dico con candore, mica me ne vergogno. Le prendevo, mi sembrava di stare meglio. Probabilmente stavo meglio, ma non era una medicina. Lo spieghi meglio lei, dottore, cosa significa questa cosa? Guarda, è un rito magico. L'omeopatia nasce nell'Ottocento per credenze che ai tempi ovviamente erano assolutamente giustificate e che poi si sono propagate nel tempo. Questo rito magico prevede la diluizione estrema di un principio attivo, tanto estrema che questo principio attivo scompare. Poi viene spruzzata l'acqua che contiene il principio attivo ormai scomparso nei granuli di zucchero, l'acqua evapora, quindi restano dei granuli di zucchero, di puro e semplice zucchero, che vengono venduti a peso d'oro. Ovviamente non funziona, non c'è bisogno di essere grandi scienziati. Cioè sono zuccherini. Quanto costa mediamente un farmaco omeopatico? 15 euro, 10 euro, minimo? 15, 30, diciamo che circa 2000 euro al chilo, considerando pure il prezzo dello zucchero, ecco. Quindi uno potrebbe prendere, diciamo, un farmaco tradizionale, andando dal droghiere e comprandosi un chilo di zucchero. A me non lo paga un euro, non so, due euro, quant'è? Esatto, è un prezzo altissimo, soprattutto è molto più alto di farmaci che funzionano, di farmaci veri, ecco. Quindi la lobby c'è anche in omeopatia, anche perché in omeopatia ci sono prodotti da aziende quotate in borsa, non dimentichiamolo. Quindi, diciamo, il vero business è fabbricare e vendere farmaci omeopatici, farmaci, diciamo, mi stanno scrivendo prodotti omeopatici, ma quando uno va in farmacia e dice ha il corrispondente omeopatico, l'ho visto decine di volte questa cosa, è esattamente la convinzione sottintesa che sia una medicina alternativa, perché dice mi dà l'aspirina, no, anzi mi dia il corrispondente omeopatico, ti dà, non so, paragrip, come si chiama, non lo so bene. Il Comitato Nazionale di Bioetica ha proposto una cosa anche intelligente e ovvia, cioè di segnalare nel prodotto omeopatico proprio la scritta non è un prodotto senza efficacia dimostrata, che è una cosa ovvia, oppure di mettere i nomi non in latino dei principi attivi ma in italiano, perché magari così invece di leggere tubercolinum, che è un principio attivo omeopatico, si leggerebbe ghiandola di mucca con la tubercolosi e quindi le persone ci penserebbero due volte prima di comprarlo. Fermiamoci solo un istante, siamo sulla strada di dare dei chiarimenti, speriamo che ci ascoltino, avendo la convinzione che non c'è pregiudizio da parte nostra, soprattutto non c'è nessuna casa farmaceutica che ci sta sponsorizzando, anche perché molte case farmaceutiche in realtà con l'omeopatia fanno un notevole affare, quindi noi in questo momento stiamo creando dei problemi probabilmente invece che favorire chi vende questi farmaci. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione, dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. La vita della signora che vedete vicino di fronte a me, che si chiama Delizia Cirolli, è strettamente legata a quell'acqua, è strettamente legata all'urto. Che cosa faceva mamma con quest'acqua che ci riporta al tema della puntata di oggi? La mamma mi faceva degli impacchi con l'acqua dell'urto al ginocchio e continuava. Mamma le spiegava quando le faceva questa operazione a che cosa serviva? No. Niente, per me, cioè, non l'ho vissuta proprio come malattia, la gravità della malattia. Ecco, lei non si è resa conto? Non mi sono resa conto. Questa è un'intervista su TV 2000, la TV della CEI, dove una signora racconta, la mamma gli faceva gli impacchi a un ginocchio, adesso non so bene con che tipo di patologia, con l'acqua di Lourdes. Ma ci sta, fa parte della fede popolare, non si può nemmeno in maniera brutale imporre un pensiero illuminista a tutto il mondo, molte persone vivono di questo, hanno fiducia in questo, fa parte della loro vita, della loro esistenza, sono estremamente tolleranti, aperto a che tutti possano credere, però mi sembra singolare che esista una industria specializzata nel vendere un medicamento, presunto medicamento, sì, perché se fa bene, se cura è un medicamento, chiamatelo come volete, chiamatelo trattamento, preparato, ma viene venduto come medicamento che sul banco del farmacista sta insieme alle altre medicine, capito? Che è composto di acqua, di pura acqua, l'acqua è venduta a un prezzo esorbitante perché contiene un principio che secondo una formula magica messa a punto da un signore a cavallo fra il 700 e l'800 in cui le malattie si curavano col chinino o col salasso, capito? Oggi vale nel periodo in cui c'è la scienza, la chimica, la fisica, si entra in campi mirabolanti della ricerca scientifica, ancora valga questo principio. Ma può valere, va bene benissimo, non c'è nessun problema, ma non chiamate le medicine e soprattutto preservate le persone che probabilmente non hanno strumenti culturali per capire questo e quindi possono iscriversi magari alla setta del Roveto Ardente, che non c'è niente di male, leggere la Bibbia, che non c'è niente di male, farsi l'imposizione alle mani, che non c'è niente di male, purché non sia alternativo al fatto che quando un bambino sta male lo si porti all'ospedale. Però salvo di grazia, lei mi dovrebbe chiarire soltanto una domanda, mi stanno facendo tutti la cosiddetta domanda trabocchetto, e tutti hanno cani, gatti, cavalli, serpenti, criceti che guariscono con l'omeopatia, dice perché non chiami un veterinario omeopata, hai paura? Ecco, mi spiega lei come funziona questa cosa. Ma in realtà non è così accertato, anzi al contrario, che l'omeopatia funziona negli animali. Diversi studi hanno provato che non vi è alcun funzionamento, però quando è stato notato un piccolo funzionamento, anche lì, diciamo, paragonando il prodotto omeopatico con il placebo, si è visto che il funzionamento è simile al placebo, cioè al nulla, ovvero un granulo omeopatico di zucchero identico a un granulo di zucchero placebo, perché anche gli animali, come anche i bambini neonati, possono subire l'effetto placebo, quindi nulla di miracoloso. Allora, Umberto, buongiorno. Umberto è caduto, Fabio. Fabio. Fabio, sono io. Ciao, buongiorno a tutti. Io sono un informatore scientifico di una casa farmaceutica che produce esclusivamente etico, per cui medicinali. Voglio portare una testimonianza di parecchi anni fa, circa una ventina, visitavo un professore il quale mi raccontò di un episodio che gli successe, nel senso arrivò una signora molto danarosa, a quale tutti i mesi passava da lui, Dio gratias, gli lasciava circa 150.000 lire a visita, allora tantissimi, e reclamava un forte mal di testa, emicrania, e lui sapeva che non c'era, cioè il farmaco sì, si poteva dare, però il problema era piuttosto psicologico. Allora cosa gli prescrisse? Gli fece una ricetta e gli disse: guardi, lei va in farmacia e si fa preparare un flaconcino di perossido di idrogeno, tra parentesi diciamo che acqua ossigenata. Sì, acqua ossigenata, certo. Esatto, ne prende 10 gocce la mattina e 10 gocce la sera. Mi raccomando, 10, se ne cadono una, butta via tutte e lo rifà, se ne cadono 9, ne mette una. E torni fra un mese. È guarita. La signora dopo è tornata dopo un mese e ha detto: professore, lei mi ha salvato la vita. Come diceva il dottor Salvo di Grazia, l'ha imposto un rituale magico, probabilmente sul livello di suggestione mette in azione, non voglio azzardare in campi che non conosco, delle risorse che abbiamo noi interne a livello, non so, di neurotrasmettitori, non so, di che noi sentiamo meno quel dolore o risolviamo il problema. Però mi spiega una cosa, Fabio, una domanda. Lei fa l'informatore scientifico, quindi lei propone dei farmaci ai medici praticamente. Esatto, sì. Non è che propongo dei farmaci, gli illustro le novità. Le novità, ma con le controindicazioni e tutto. Senta, ma i suoi colleghi che propongono farmaci omeopatici, si chiamano lo stesso informatori scientifici? Sì, purtroppo sì, ma non per loro, perché si devono qualificare come informatori scientifici, perché per la casa omeopatica loro scientificamente devono dimostrare quello che non possono dimostrare. Questo è un dato interessante. Allora, chi fa il mestiere di Umberto con informatore scientifico, quindi va dai medici, gli propone le novità nel campo della medicina, perché anche loro devono aggiornarsi, si chiama informatore scientifico anche quello che porta trattamenti omeopatici. Lei lo sapeva, Salvo di Grazia? Sì, no, ma oltretutto l'omeopatia, il prodotto omeopatico deve essere definito medicinale per le norme attuali. Allora perché continua a dire non è un medicinale, non dire stupidaggini? È definito un medicinale. Per dal punto di vista normativo sì, purtroppo dal punto di vista medico non lo è, nel senso che lo zucchero non è un medicinale, ci mancherebbe. Però esiste proprio un problema dal punto di vista della normativa? Assolutamente sì, ma d'altronde negli ordini dei medici esistono elenchi ufficiali di omeopati, di medici omeopati. Ma come mai c'è la specializzazione in medicina omeopatica? No, non esiste, questo è un altro equivoco, non esiste. Mi stanno scrivendo, cioè, come mai ci si può specializzare in medicina omeopatica? Assolutamente no, questo è assolutamente falso, non esiste specializzazione in omeopatia. Chi vuole fare l'omeopato frequenta dei corsi privati, dei master, ma non c'è il medico specialista in omeopatia. Qualsiasi medico può prescrivere omeopatia, io compreso. Io ho preso un diplomino online e sono specialista in omeopatia, davvero. Se le sembra giusto dal punto di vista proprio dell'ordine dei medici che un medico possa scriverci un omeopata associandolo alla funzione del medico, che è una funzione invece che è totalmente legittimata dall'evidenza scientifica? Ovviamente per me non è giusto, non solo è una cosa che discredita l'immagine del medico, ma è anche una brutta, diciamo, un brutto biglietto da visita per il paziente, perché ovviamente si confonde il medico con una persona che prescrive medicine che hanno più che altro funzione magica, appunto, di stregoneria. Non è assolutamente una cosa positiva, per me dovrebbe cambiare assolutamente. Un'altra domanda, al contrario, io che faccio il giornalista, se faccio il corso online da omeopata, posso prescrivere trattamenti omeopatici? No, perché non è laureato in medicina, può farlo solo un medico. Ma scusa, rende conto l'incongruenza di questo? per vendere acqua fresca bisogna essere laureati in medicina, che dice che però quella è acqua fresca. In teoria la cosa in partenza è nata perché? Perché si pensava che il medico potesse distinguere il caso in cui servisse appunto acqua fresca dal caso in cui non servisse. E allora è un placebo, che somministra un placebo. Sì, solo che anche lì entra un'altra norma che dice che il medico non può prescrivere placebo, quindi una totale incongruenza assoluta. Beh, forse allora magari il ministro della salute dovrebbe mettere le mani in queste normative, no? O sbaglio? Direi di sì, anche gli ordini dei medici, solo che è una cosa talmente difficile perché ovviamente l'omeopatia ormai si è infiltrata anche negli ospedali pubblici. Esistono ospedali dove ci sono reparti di omeopatia, che è una cosa assolutamente, è una truffa nei confronti del cittadino. Ecco, ma è giusto pagare con denari pubblici una non medicina, come se fosse medicina? Assolutamente no, perché ovviamente va contro gli interessi del cittadino, anche perché si dà l'idea al cittadino che quella sia una cura, quando non lo è. Ma stiamo parlando, ripeto, di zucchero. L'omeopatia non è una cura che forse in alcuni casi, in certe malattie, si parla del nulla. Ma diciamo è deducibile, cioè io posso farmela pagare anche dal servizio sanitario il trattamento omeopatico. Sì, nel senso che al contrario di alcune medicine, per esempio le vitamine che potrebbero in alcuni casi ben selezionati servire, si possono anche scaricare, cioè i prodotti omeopatici si possono addirittura scaricare. Beh, quindi cioè, la totale liceità di considerare la medicina, mi sembra un'ipocrisia totale, non è medicina ma è trattata come medicina. È un bel business che ovviamente accontenta una parte di mercato, di persone magari che amano questo tipo di terapie, quindi un business ben fiorente. Perché allora con lo stesso principio anche l'acqua di Lourdes, di cui ho portato come inizio, dovrebbe essere deducibile al servizio sanitario. Io prendo l'acqua di Lourdes perché mi fa bene, dovete rimborsarmela. Sì, assolutamente così, cioè si dà per scontato che una magia, che una finta medicina sia al contrario un farmaco, cosa che è falsa. Stefano Morigi, una battuta da filosofo della scienza sui dati incontrovertibili che ci ha portato Salvo Di Grazia. Guarda, io preferirei questo, siccome la tua trasmissione tenta anche di arrivare come elemento di comunicazione scientifica ai grandi numeri, vorrei dire alle persone che per una qualche ragione, che a me non interessa, credono o si decidono di affidarsi all'omeopatia, nel momento in cui soggettivamente percepiscono un qualche beneficio, se hanno a cara la loro salute, vadano da un medico che è diverso da quello che gli ha somministrato il farmaco omeopatico e chiedano di controllare la natura, le ragioni e le cause di quel beneficio percepito. Forse è l'unico modo per instaurare un dialogo, un ponte con queste persone. Facciano dei controlli incrociati. Se vogliono credere nell'omeopatia, è difficile che tu li riesca a convincere con un'organizzazione di non farlo. Ma anche perché poi, scusa, quelli a cui fa bene, perché dovrebbero pensare male di una cosa che li fa star bene, tutto sommato? Esatto, quindi non c'è dato che li convincerà di questo. Ma se queste persone hanno davvero cara la loro salute e quella dei propri familiari o dei propri amici, per ogni beneficio soggettivamente percepito, mettano in atto un controllo incrociato fatto da un protocollo scientifico. Ma figurati, c'è ancora gente che paga i cartomanti, scusami. Va bene, allora staremo a piangere morti dopo morti quando queste terapie verranno somministrate e non verranno gestite razionalmente da persone che preferiranno affidarsi alle loro fedi e non dei controlli razionali sui fatti e sulle evidenze disponibili. Ci fermiamo un secondo, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Luca, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti, mi fa molto piacere parlare con lei. Sì. Niente, in pratica io mi chiedevo, dobbiamo credere per forza a questi maghi medici che hanno la laurea in Italia? Solamente loro diranno la verità, solamente loro hanno la panacea per andare avanti, no? Io non sono né per l'una, voglio chiarire, non sono né per la medicina propriamente detta, né per quella omeopatica o quella alternativa, ma penso che almeno una cosa di via di mezzo ce l'hanno sia l'uno o l'altro, una ragione, no? Parla dell'acqua con lo zucchero, e allora tutte quelle erbe, solo l'insalata è buona, ma perché le erbe della medicina tradizionale cinese, che è più antica rispetto alla medicina tradizionale, quello pure è sbagliato, cioè fino a un certo punto sono curati gli esseri umani. Ma perché ci mette, scusi, ma perché ci mette tutta questa animosità? Ma faccia quello che a lei sembra più logico fare, nessuno, io mi sto battendo solo per un principio generale. Per se questo non ha un riconoscimento scientifico, non può essere considerato un farmaco, anche se non viene chiamato farmaco, ha tutte l'iter di rimborso dalla spesa pubblica, cioè dalla pubblica, diciamo, assistenza, lo può prescrivere soltanto un medico, ha tutti gli effetti, è considerato come un farmaco, e farmaco non è. Bisogna scriverci sopra, non è un farmaco. Poi lei può andare a comprare anche l'artiglio del diavolo o l'unghia non so di che, del drago, ma nessuno glielo impedisce, ma non ci scriveranno mai sopra è un farmaco, e non potrà mai andare con la ricetta a farsela rimborsare dalla mutua. Umberto, buongiorno. Pronto? Sì, ascolto. Buongiorno. Niente, io volevo solo comunicare, io sono più di 15 anni che faccio il trasportatore di medicinali per le farmacie. Quindi lei trasporta sia farmaci che prodotti omeopatici? Sì, prima trasportavo solo medicinali, poi c'è stato il grandissimo boom e chiaramente, come lei dice, se ci sono le hobby... Qual è la percentuale, nel suo camioncino, la percentuale di farmaci e la percentuale di trattamenti omeopatici? Ma diciamo che siamo quasi al 50%. 50, quindi... A tutti gli effetti è un prodotto che segue tutte le vie di distribuzione e di accreditamento del farmaco. Basta capire. Perdoni se la interrompo, ma è normalissimo questo. È normalissimo perché, come ripeto, se ci sono le hobby per i grandi farmaci, per i farmaci normali, quelli stabiliti per legge, praticamente ci sono anche le lobby per questi qua, perché se no non si spiega il boom. E probabilmente scusi, vendere una boccetta d'acqua 20 euro, ma ci starei subito. No, ma quello è un altro discorso. La boccetta d'acqua è un altro discorso, perché gli antichi sono stati memorizzati con questa cura delle boccette dell'acqua di Lourdes. No, anche sto d'acqua, nonna, no, d'acqua omeopatica. Sto dicendo acqua. Anche mia nonna mi metteva l'acqua sulla fronte. A chi l'aveva messa? Piccolo. Cioè non esiste, purtroppo dietro c'è tutto un discorso di soldi. Quando uno ha la possibilità di fare i soldi, che già ce n'ha tanti di miliardi, si inventa tante altre storie, industrie emopatiche, industrie di quella, industrie di quella, ma dietro tanto noi, non ce l'hai, a me personalmente, non ve lo potrà mai togliere nessuno dalla testa, c'è dietro un business che lei non se lo manco immagina. Sì, no, lei non se lo immagina. I numeri ci sono, si capisce quanti se ne vendono e quante persone, ma io non ho nulla contro il business, mi sembra un po' singolare il fatto che si continui a mantenere una posizione del tutto incerta sul fatto che c'è qualcosa che non funziona da un punto di vista normativo. Da un punto di vista normativo c'è qualcosa che non funziona. Roberto, sì. Sì. Roberto. Sì, buongiorno Nicoletti. Come dicevo alla sua collaboratrice, sono un veterinario, mi occupo di animali di allevamento, quindi bovini da latte, suini, eccetera. E circa 25 anni fa mi sono approcciato all'omeopatia con l'intento di ridurre al minimo l'uso di farmaci che io non prescrivo mai tanto volentieri, proprio il minimo indispensabile. Per cui ho detto proviamo questa strada e risultati zero assoluti. E lì non c'è di mezzo né l'effetto placebo né altre questioni, c'è solo l'animale a cui viene somministrato un prodotto, per cui se il prodotto funziona l'animale risponde alla terapia, se non funziona vuol dire che la terapia non è quella corretta. Eppure ci sono dei suoi colleghi che mi scrivono dicendo io con i miei animali funziona, che devo dirle? Lei ha provato sulle mucche, sui cavalli, sui maiali, probabilmente i gattini e i cagnolini da compagnia sono più sensibili all'effetto placebo, che devo dire, probabilmente è così. Ma prescindo da questo fatto, per me ognuno potrebbe essere libero di dare al suo cane quello che preferisce, anche l'acqua e zucchero, se pensa che gli sta bene. Allora, salvo di grazia, vorrei se possibile in conclusione, se possiamo fare un elenco di possibili richieste, se lei avesse carta bianca e fosse consulente di chi deve fare le leggi, quale sarebbe l'ordine delle richieste? Mettere sull'etichetta molto chiaro cosa? Questo quasi sarebbe la prima richiesta che farei, cioè scrivere chiaramente in maniera non interpretabile che quel prodotto omeopatico non è un farmaco, cioè non ha effetti scientificamente provati e non cura nessuna malattia. Come lei ha detto, esistono tantissimi prodotti che non hanno nessuna efficacia, basta dirlo, poi esiste libertà di cura, libertà di scelta, ognuno faccia quello che vuole. E scrivere diciamo, il composto che dovrebbe essere nel farmaco nel trattamento omeopatico prodotto, con il nome italiano non latino. Che sono le richieste d'altronde che hanno fatto al comitato di bioetica, quindi sono richieste non solo mie, ecco, sono richieste. E perché non sono state fatte queste cose? Beh, è una cosa recentissima, quindi si dovrà vedere se verranno accolte. e poi fare in modo che gli enti pubblici, le istituzioni, quindi gli ospedali, gli ordini medici non pubblicizzano questa disciplina, perché se vedo vendere l'omeopatia in un ospedale pubblico, io sto pagando con i soldi miei e con i soldi di tutti gli italiani una finta medicina, e questo non deve accadere assolutamente per principio. Quindi il trattamento omeopatico non deve essere deducibile, come non è deducibile l'acqua santa o altre cose. Poi nella vita privata ognuno compie quello che vuole, esistono le riviste di astrologia, non sono proibite per legge, ci mancherebbe, ognuno faccia quello che vuole. Uno può comprarsi anche la piramide magica, può comprarsi quello che vuole, poi non la porta la mutua. Senta, riguardo ai minori, ai bambini, l'uso dell'omeopatia sui bambini, ci deve essere qualche norma in qualche maniera che cauteli i bambini? Se i genitori appartengono alla setta del sacro, come io non mi ricordo bene, del rogo magico, e pensano che gli fa male prendere medicine tradizionali, devono essere tutelati in qualche maniera? Beh, lì purtroppo è un discorso di contesto culturale probabilmente, perché a quanto pare questa famiglia vive appunto in questo contesto un po' esoterico, ecco, e le norme sono quelle che già esistono. Un bambino, un minorenne dovrebbe essere tutelato dal genitore, che se non è in grado di tutelarlo, ovviamente i provvedimenti esistono, già esistono le leggi. È un discorso generale, cioè l'omeopatia non può essere venduta come medicina, è un business, è una finta medicina, che sia chiaro. Riguardo alla parte più scabrosa del discorso, i suoi colleghi che scrivono medico omeopata, andrebbe anche chiarita questa vicenda? Ma anche lì c'è poco da dire, perché purtroppo appunto l'omeopatia, non essendo una specializzazione, uno può definirsi come vuole. Se gli enti preposti degli ordini dei medici ufficializzano questa posizione, cioè dicono esistono gli omeopati, evidentemente il paziente, la persona, ci crede, perché anche si rivolge al medico ovviamente, si dà una credibilità a una persona che propone una finta medicina. Quello è un discorso che non possiamo risolvere né io né una persona qualsiasi, ma le istituzioni. Quindi un appello può essere quello di cominciare a mettere ordine in questo campo. Anche perché, mi corregga se sbaglio, l'intuizione è che il medico omeopata sia un medico che ha una dimensione più umana, un approccio più olistico, comunque, che oggi va molto di moda questa parola. Quindi preferisco il medico omeopata, perché perlomeno, se può, evita di darmi delle medicine che mi fanno male. Sì, ma anche perché, guarda, io dico solo un dato velocissimo, che un servizio pubblico, un ambulatorio pubblico di omeopatia che c'è in Toscana, fa in un anno le visite che io, medico pubblico di un ospedale pubblico italiano, faccio in una settimana. Quindi ovviamente hanno più tempo, perché hanno molte meno richieste, e quindi possono completamente donarsi al paziente, cosa bellissima, ma che poi di fronte alla prescrizione di un farmaco omeopatico, insomma, è abbastanza ridicolo. Grazie Salvo Di Grazia, grazie a quelli che hanno partecipato, speriamo, se possibile, aver dato perlomeno dei dubbi nella mente di chi ci ascolta, e così certo delle proprie convinzioni.